Sono al telefono con Flavia Biondi, fumettista e autrice di Le Maledicenze, il nuovo fumetto in uscita per Bao Publishing. Buongiorno Flavia, bentornata ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno a voi. Allora Flavia, parliamo un po' di Le Maledicenze. In realtà questo fumetto raccoglie due storie che sono Barba di Perle e L'Orgoglio di Leone, scritte all'incirca 10 anni fa. Ti volevo chiedere che cosa raccontano e qual è il filo rosso che le unisce. Se c'è, ovviamente. Allora, sono appunto due storie che ho scritto negli anni passati, sono stati i miei primi due racconti lunghi, sono due storie che hanno trame diverse e protagonisti molto diversi fra loro, ma comunque sono storie che parlano di outing. E che quindi comunque parlano dell'accettazione di se stessi, del rapporto col proprio orientamento sessuale e di due personaggi che fanno ancora un po' fatica a venire allo scoperto. Questo titolo, Le Maledicenze, che quindi li racchiude un po' entrambe le storie, che cosa rappresenta? Cosa sono queste maledicenze? Allora, era la ricerca di un titolo che unisse queste due storie è stata un po' difficile, appunto sono due storie che hanno dei punti in comune, ma sono estremamente diverse le due voci che le raccontano, e le maldicenze mi sembrava una bella parola perché in qualche maniera è un punto di collegamento fra due personaggi, perché la loro paura più profonda è quella di venire giudicate dagli altri, e quindi in qualche modo la preoccupazione principale è la visione che gli altri hanno di loro, e le maldicenze è in qualche maniera un po' il loro punto debole. Senti, altro filo rosso, altra cosa che unisce i racconti, possono essere considerate le ambientazioni, entrambe toscane. Sì, esatto. È sempre stato comunque un mio desiderio quello di raccontare la terra in cui sono cresciuta, e ho sempre approfittato un po' dei fumetti per questo. E mi piaceva che nella prima storia il protagonista Santo si confrontasse con l'idea di mascolinità che esiste nel mondo prima di lui, e per raccontare questo mi piaceva rappresentarlo attraverso la visione delle statue, quindi un'immagine un po' classica dell'uomo dall'alba dei tempi, e quindi avevo pensato a Firenze. Mentre per quanto riguarda Thomas, il protagonista dell'Orgoglio di Leone, è una persona estremamente chiusa. E in qualche modo avevo cercato di, mi era venuto in mente di collegarlo a Siena, perché è forse la città, una delle città un pochino più anomale, un po' più chiuse della Toscana, e mi sembrava potesse essere un po' qualcosa che potesse fare per lui, ecco. A proposito dei protagonisti di queste storie che hai appena citato, ci racconti qualcosa di più di loro? Come è avvenuto il processo creativo che li ha portati alla nascita? Allora, Santo, il protagonista di Barba di Perle, in realtà nasce da un piccolo concorso a cui avevo partecipato con una storia breve, per cui poi non ero stata selezionata. Quindi Barba di Perle nasce poi dall'idea di riutilizzare le pagine che avevo fatto, cercandogli di creare una storia intorno. Ed è stato meglio così alla fine. E Santo nasce dall'immagine, dall'idea della metamorfosi, cioè del fatto che cambiare qualcosa di noi in qualche maniera esteticamente ci aiuti anche a cambiare interiormente. Nel suo caso era disfarsi di tutta una serie di oggetti, di abiti che per lui non erano quello che il modo in cui veramente voleva, non rappresentavano il suo modo reale di essere, ecco. Per quanto riguarda la nascita di Thomas, in realtà in qualche modo in quel periodo avevo cercato nell'Orgoglio di Leone di raccontare quello che era un po' il mio conflitto interiore come persona queer che si affacciava un po' per la prima volta in questo mondo. Quindi erano i personaggi di Thomas e di Leone, erano un po' il mio angelo e il diavolo sulla spalla, che discutevano fra loro della loro percezione della comunità LGBT in quel periodo. Però ecco, sono due storie che risentono un po' degli anni in cui le ho scritte, adesso non so più se potrei raccontarle nella stessa maniera. A proposito di questo, no? Come dicevamo all'inizio, queste storie sono state scritte 10 anni fa, ci sono 10 anni di differenza dalla prima pubblicazione. Cosa credi sia cambiato nella risposta del pubblico, nella percezione che si ha, no? Nel raccontare queste storie di genere? Beh, sicuramente adesso fortunatamente sono diventate parte della quotidianità, nel senso di dire che 10 anni fa, quando l'ho scritte, almeno a livello di fumetto, ma anche in generale di serie TV, film, eccetera, il fatto che era raro che ci fossero personaggi queer. Adesso è, anzi lo si dà quasi per scontato che ci siano, non c'è più bisogno di giustificarli, non c'è più bisogno che la storia ruoti intorno a quello come argomento, e quando comunque ho scritto queste storie si stava in qualche maniera ancora parlando soltanto di coming out, di outing, dell'autoaccettazione. Adesso il discorso è molto più ampio, si parla di identità di genere, di non binary, di transessualità, di altri modelli relazionali, quindi credo che il discorso sia molto più esteso rispetto a quello che era 10 anni fa.